Io uso Pino Silvestro. Cazzo, Pino Silvestro, cosa che io c'è? Ma è buon Natale. Gatto Silvestro, E allora, c'ho dopo barba, la prima barba, la crema, il dopo barba, la doccia Pino Silvestro, lo shampoo Pino Silvestro. Con Pino. Silvestre, cazzo Silvestro, Silvestro Vittivegliani. Vabbè, c'è pregato, Mi uso la cavalla. E cosa, oh grazie, ma vai, chi c'ho la vaiba, chi c'ho la doccia, chi c'ho la... ma chi c'ho la... fa scioccarti le uova, se non vedrai. No, quello c'ho quello della... Di detersivo, Ma pare ciò che tacci la guglio pa. Allora Barocia. Aglio, aglio, parliamo di cose serie. Grazie a te, sono cose serie, amico. E se la luce è entrata, voglio Pino Silvestro. Intanto si chiama Silvestro, si chiama Silvestre. Capito? Poi non lo so perché io non lo conosco neanche. Non lo conosco neanche come profumo. Quello che ha detto Gianni è un grande profumo, molto quotato, molto molto venduto, eccetera eccetera, capito? Non ha niente a che fare con l'intimo, ma bensì col dopo intimo, vero doppio rum. Stai attento perché te lo sto dicendo, Franco California è diventato orecchione. Aspetta un attimino, se vogliamo parlare di cose serie, e correggetemi se sbaglio, dobbiamo parlare di cose per cui siamo coerenti, siamo stati coerenti tutta la vita, vero e Sparviero? Certo, è certo, coerenza è una cosa seria, che si dà le cose serie, infatti. No, parliamo di Mangagliò perché non è una cosa seria. Parliamo di Piricocco, ci trova tutti d'accordo, siamo tutti coerenti e siamo tutti a favore. Cosa serissima. Allora il primo che può parlare è Gianni il Caldo. Mi astengo da discorsi scurrili. Non sono scurrili, Chitti, sono currili. Currili, perché ho già mangiato panini. Scurrilità addosso. La scurrilità ti sta volendo. Grazie, cosa hai mangiato oggi? Oggi ero dedicato tutta la cucina. Gnocchetti con il sugo col macinato. Capo collo. Poi ho fatto l'insalata di patate lessate, condite con l'olio d'oliva, un pizzico di sale e poi ci ho messo un goccio di olio balsamico, ma di aceto balsamico. Poi è giunta mia moglie una barella di ceci, a posto di fave, una fabbata di ceci, no? Una barella di maniato, un poco di ceci, un poco di ceci, un poco dell'altro. Vado la barella, parla di un barella. O che esplode? Cos'è? Giorno di dieta era oggi. Allora... Era voi il padigiri per i pezzarri? No, padigiri ma giuvido. Due caffè, un bicchierino di crema, whisky. Da voi mi pare la Russia e c'è tutta una zambucca. Cazzo, una bomba a mano, no? Cazzo, grazie, ma non voglio fare una giacchetta a te, dammi i misuri. Ah, ma ti faccio tre arazzi. Dolce non hai mangiato. Sono tre arazzi con una buccia, però. Capita, le frittelle di ieri sera che mi ha comprato la mia 50. Una frittella buona, proprio come ti piace a me. Non è che diventano resico, no? Grazie, sta attento, non ti c'è anche perturbazione d'aria, anch'io ci faccio vita che la radio. Ah, ma dici, sorpresa, casa è giunta, ma pranzo. Chi non ti vai la mazzicata? Tu gli dici che sì, a dove l'hai lo grafato per la pozzo? Ah, con Giulio, per il viaggio della compagnia, ti manda la rotta di Deppina a corrido. Ma da voi, con i cicci che hai mangiato, ogni abbasso, di tutto quello che è dentro, sami, salsa, carne di bocca, che se ci marmaglia per bocca. La manda a città di Zassa, l'hai già mangiato? Mamma mia quanto mangi, cazzo, cosa sì, un cinghiale, no. Io ho mangiato mezzo panino stamattina verso le 10, poi sono rientrato prima alle 2:30. E a pranzo non me ne metto nemmeno, vabbè, anzi una bella fettina, un po' di salata e un bel bicchierotto di vino, basta, finito, senza luce, senza niente, poi... Ma ti ho misurato la glicemia, la spina mi ha aggiunto 80. Stai attento, graziato, stai attento, fai la bravo. Ehi, tanto si fa una volta solo, ma meglio andare a pasta piena. Non sei che l'hai già mangiato? No, stasera ho un dolcetto, me lo mangio, alle 4, due gambetini, sorridi, cazzo sono le 4. Guardando l'orario per vedere quando arrivano le 4, oh già, ma non lo metti in riga questo. Grazie a voi che ti capiteggia che sono il cruffio, che abbia i pazzi di morsi, si mangiava i suoi pochiani di Trento, ma lì ha cavato la mineta da un morso, e ha ripetuto un pizzolo, un morso di infame, a piglia si ha mangiato tutto. E ti ha detto il padre, chi è che mi ha mangiato la minestra che ho tolto dal morso? Il figlio a piglia ti ha capitato, ah, allora come la mangiugata. Certo, andiamo a vedere. Oggi, stamattina stavo provando questo apparato su USB, mi sente ma io non ricevo bene, è tutto robustico. Mi devi chiamare con Clarif. L'ho fatto piano piano, però a me mi pare che è da crisi, è pasciuto. Oh, aspetta, dai, che io vi lascio, ci sentiamo stasera. Che vado a traiarmi un'oretta, se no, no, vi ho buttato via per combattimenti familiari, eccetera, non riposo per niente. Ci sentiamo signori, fatevela buona, buon proseguo, ciao Gianni, Antonio, Antonello, Graziano, chiunque fosse in ascolto qua in agguato. Ci sentiamo stasera, ciao a tutti, vai Gianni, riprendi il tuo fagire. Ciao Claudio, buon ci sentiamo stasera, avanti Antonio. Ciao Claudio, ne approfitto anch'io, dai. Ti saluto e vi saluto, che ho una riunione di condominio alle 4 e mi devo preparare per la dura battaglia. Chiaramente come condomino, non come amministratore. Siete tre, ci sentiamo per tutti stasera, se ci siete, dai. Riprendi Graziano e fai girare. Ehi, ciao, buona apparatura al condomino, se vuoi una pistola passa qua, non c'è problema. Ciao Claudio, buon riposino, rilancio Gianni, riprendita. Ehi, ciao Antonio. Buona riunione, fammi sapere. No, me la sono andata anch'io, grazie, mi faccio riposino anch'io. E poi vi prendo un po' le 5, dai, quando scendo giù. Ci sentiamo ragazzi, ciao Alessio, ciao Graziano. Io faccio qualche pizzaccia, ciao. Ciao buon pisolino, avanti a chi tocca Alessio. Avanti a chi tocca.